Cari amici, questa non è un'omelia, ma registro dal mio studio, perché volevo farvi anche un regalo di Natale, nel senso che suggerisco a voi come voi stessi potete farvi un regalo di Natale. Sento che diversi di voi sono attirati dal commento che faccio ai salmi responsoriali. Questo però è difficile che avvenga per voi che andate a messa, perché i salmi responsoriali in genere sono un po' dimenticati, sia dai sacerdoti che non li commentano quasi mai, sia dai lettori che li leggono non sempre benissimo. E in effetti invece i salmi sono anche i salmi responsoriali sono delle preghiere bellissime, ma vanno preparate come tutte le preghiere. Ora, se uno ha il messalino quotidiano, lo può leggere a casa sua, anche la sera, prima che il giorno dopo vada a messa. Le può leggere quando va in chiesa a fare una visita al Santissimo Sacramento. Le legge, le sottolinea, ci riflette su. Scopre i verbi, li sottolinea e poi li prega. E così diventano preghiera. Allora vi suggerisco, fatevi questo regalo, prendete 50 euro, o vostri, o chiedetelo come regalo ai vostri figli, ai vostri... No, e abbonatevi a questi libretti mensili. È possibile abbonarsi. O è possibile metterli in una busta dove, da cui prelevate ogni mese quella cifra di 3-4 euro, quanto costa ogni mese, per pagarvi il... Perché c'è certa gente, adesso io non faccio i conti in tasca a nessuno, ma certe volte siamo proprio meschini, eh. C'è gente che ha paura a spendere 4 euro al mese. Che sono 2 etti di prosciutto crudo un po' buonino, eh? Ha paura a spendere 4 euro al mese e poi dopo devo buttarlo. Ma quante cose butti e le hai pagate? Se tu prendi un biglietto del tram, poi lo usi e poi lo butti, no? O fai la raccolta dei biglietti usati. E così anche questo, lo usi per un mese e avresti un dono straordinario. Ecco, questo è il regalo di Natale che ciascuno di voi può fare a se stesso, che dura tutto l'anno. Vi chiedo solamente un piccolo regalino anch'io. Se qualcuno di voi vorrà ascoltarmi, vorrà, uso una parola impegnativa, se vorrà obbedirmi, ma io non so dove prenderlo, amico, dati da fare. Allora, se qualcuno di voi vorrà obbedirmi, vorrà usarlo, io gli chiedo una gentilezza, è il mio regalo che mi fate. Mandatemi un piccolo messaggino scritto in cui mi dite che siete contenti di questa scelta che avete fatto ascoltando il Don Ambrogio. Ciao, bye bye bye.